24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. L'esplosione nel sito nucleare di Marcoule nel sud della Francia, le autorità assicurano non ci sono fughe radioattive. Borse europee, un altro lunedì difficile nel timore di un default della Grecia. Champions League, il bomber del Milan Ibrahimovic va a KO per un problema muscolare, salta la trasferta a Barcellona. Bentrovati da Roberta Pellegatta a un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura l'incidente nell'impianto nucleare di Marcoule nel sud della Francia, che è stato definito superato dalle autorità per la sicurezza nucleare francese. Un'esplosione, un morto, un ustionato grave, due investiti dalle fiamme in maniera molto più leggera. Un incidente industriale gravissimo, ma senza una ricaduta nucleare. Il presidente della commissione di informazione di Codolet, il comune del Gard, dove sorge l'impianto gestito da una filiale di EDF, esclude a metà giornata effetti radioattivi sul territorio dopo l'esplosione avvenuta prima dell'alba in un forno di incenerimento. Saint-Tracco è un grosso parco industriale di applicazioni dell'industria nucleare e non una centrale nucleare. Sorge a nord di Avignone, lungo l'autostrada A7, dà lavoro a 3.800 persone. Tratta rifiuti provenienti dall'industria, ma anche dalla ricerca e dagli ospedali, gli attrezzi, i metalli entrati in contatto con l'ambiente nucleare ed è abilitato per il trattamento di scarti ad attività media e bassa. Allertati in Francia, ma non solo, i controlli della protezione civile. Anche Liguria e Piemonte, che distano meno di 200 km in linea d'aria dal sito, hanno avviato le procedure necessarie. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Il presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, rassicura: la crescita economica rallenta, ma non ci sono segnali di recessione. Le banche centrali mondiali sono pronte a fornire la liquidità necessaria. In Europa, però, c'è preoccupazione per la situazione greca. Sentiamo. Sale la febbre di un default greco in Europa, mentre Atene tenta in tutti i modi di rassicurare i partner europei e la troica composta dai funzionari della UE, BCE e Fondo Monetario Internazionale con l'annuncio di una patrimoniale straordinaria sugli immobili che varrà 2 miliardi di entrate e che vada a coprire il buco del deficit da 1,7 miliardi di euro. Chi ha una casa di 100 metri quadrati, ad esempio a Colonnaki, centro di Atene, dovrà sborsare 10 euro al metro quadro per un totale di 1.000 euro entro dicembre e l'importo arriverà a sorpresa nella bolletta della luce per accelerare i tempi di incasso. La nuova manovra di settembre si è resa necessaria perché i conti pubblici del paese sono fuori controllo e continuano a peggiorare. In questo quadro i rendimenti dei titoli biennali sono saliti al 62%, record dall'introduzione dell'euro. Atene deve fare presto per convincere la Troica e la UE a sborsare gli 8 miliardi di euro di aiuti, perché ormai Berlino lavora a un piano B che prevede la bancarotta pilotata del paese e la possibile uscita della Grecia dall'euro. Vittorio D'Arold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la paura di un default greco ha travolto le borse del vecchio continente. La Commissione europea è scesa in campo escludendo tale eventualità, ma ha avuto scarso effetto. Parigi, la piazza peggiore, ha lasciato sul terreno il 4,03%, Francoforte ha perso il 2,27%, Londra l'1,63%. A Milano, piazza Affari, il FTSE MIB ha chiuso a meno 3,89%, il FTSE All Share a meno 3,62%. Sono crollate le banche, con Unicredit precipitata del 10,9% e Intesa San Paolo del 9,5%. Hanno fatto male anche le fondiare Assai, accusando un colpo dell'8%, mentre le generali hanno limitato i danni al 2,5%. Buzzi è scivolata del 6,8%, pagando la prospettiva di un rallentamento dell'economia. Sono invece andate in controtendenza le ST Macro Electronics, più 0,48%. Sulla scia dell'impennata del 2,9% messa a segno dalla concorrente tedesca Infineon, sospinta in alto dal giudizio positivo di UBS. Hanno difeso le posizioni anche le Luxottica a meno 0,4%, sulla prospettiva che il settore del lusso riesca a reggere meglio rispetto ad altri comparti, per merito della forte esposizione nei paesi che corrono di più, ovvero quelli emergenti. Tra le azioni fuori dal paniere principale sono salite di oltre il 5% quelle della Lazio, a dispetto del pareggio con il Milan nella prima di campionato. Gas Plus ha segnato un rialzo superiore all'11%, mentre il mercato ha iniziato a ragionare sull'aumento di capitale che la società sta preparando. Eleonora Micheli da Radio Corp, per Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia, insieme ad altri 7 paesi europei, Austria, Germania, Finlandia, Francia, Olanda, Svezia e Gran Bretagna, ha chiesto una riduzione delle spese previste nelle nuove prospettive economiche e finanziarie dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020. L'iniziativa è stata presentata ieri con una lettera degli 8 paesi al Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea ed è stata annunciata ai giornalisti italiani dal sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica. Lo ascoltiamo al microfono di Sebastiano Barisoni. Noi ogni anno diamo all'Europa 5 miliardi di euro, ogni anno 5 miliardi di euro in più rispetto a quello che ritorna al nostro paese. E questo quindi la riunione dei contribuenti netti, cioè di coloro che in fondo danno un contributo all'Unione Europea al di là di quello che è il loro ritorno, che pongono un problema di saldi di bilancio. Allora, qui si tratta di capire se ha ragione la Commissione Europea nella sua proposta, che dice ma noi nel 2014-2020 non aumentiamo le spese, cioè le manteniamo come quelle del periodo 2008-2014, oppure se, come abbiamo dichiarato noi stamattina, ciò non basta, occorre ridurre le spese dell'Unione Europea. Il quantum non è stato assolutamente detto né è stato minimamente concordato. Voci di corridoio mi hanno riferito, poi ho visto l'agenzia che parla di queste cifre. Io non so se erano vere o no, però se parliamo di 1.083 miliardi, se uno chiede una riduzione non si tratta certamente di andare da 1.083 a 1.080, insomma mi pare evidente che si tratti di qualche decina di miliardi che sono in discussione. Qualcuno la definisce già la pensione delle rockstar, ma il comunicato stampa diramato dal Consiglio dell'Unione Europea si intitola più formalmente «Nuove regole sui termini di protezione delle registrazioni musicali». Il documento estenderà la durata del copyright di ulteriori 20 anni. Si chiama legge Cliff perché la misura era stata caldeggiata da leggende della musica come Cliff Richard, ma anche Paul McCartney e Roger Daltrey. Non si parla di diritti d'autore, ma di quelli di interpreti e produttori musicali che verranno dunque garantiti fino a 70 anni. Gli artisti generalmente iniziano le loro carriere in gioventù e i termini per la protezione di 50 anni non proteggono le loro performance per tutta la vita, si legge nel documento dell'Unione. Soddisfazione dalla Federazione dell'Industria Musicale Italiana, il presidente Enzo Mazza. Si riduce anche un gap tra l'Europa e gli Stati Uniti, dove le registrazioni sono addirittura tutelate 95 anni, soprattutto oggi con l'evoluzione anche delle tecnologie e sempre la maggiore disposizione di cataloghi online. Il problema della tutela degli artisti europei si poneva sempre più come un elemento fondamentale nello sviluppo del mercato, soprattutto perché l'Europa ha, come noto, una forte presenza di repertori locali. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I ghiacciai dell'Artico hanno raggiunto il minimo storico a causa del surriscaldamento globale. Sulla calotta polare incombe anche la minaccia di un gigantesco piano di esplorazioni petrolifere. Il nuovo Klondike della corsa all'oro nero sta tra i ghiacciai perenni del circolo polare artico. Perenni si fa per dire. A quanto afferma l'Università Statale di Brema, infatti, la banchisa si sta restringendo sempre più, erosa dal surriscaldamento globale che intacca il permafrost, lo strato più esterno, provocando il rilascio di gas naturali come il metano. Ed è notizia di pochi giorni fa l'accordo raggiunto tra due colossi petroliferi, l'americana Exxon e la russa Rosneft, per l'esplorazione del continente di ghiaccio alla ricerca di petrolio. Per ora le esplorazioni si limiterebbero ad un investimento da 3 miliardi di dollari per trivellare alcuni fondali marini fino a pochi anni fa resi inaccessibili dai ghiacciai ora in ritirata. Ma come ha annunciato lo stesso presidente russo Putin, l'accordo contempla uno stanziamento da 500 miliardi di dollari che a giudicare dalle cifre si propone di cercare l'oro nero ovunque esso si trovi e a qualunque costo, anche ambientale. Francesco Maesano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport in chiusura, brutta tegola per il Milan in vista della trasferta di Champions League. Zlatan Ibrahimovic questa sera non ci sarà. Lo svedese ha riportato una lesione all'adduttore destro e non partirà per Barcellona. Il club rossonero ha comunicato che nel corso dell'allenamento l'attaccante svedese ha avvertito un dolore nella regione adduttoria. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare. Lo svedese è a rischio anche per la gara di campionato domenica a Napoli. Sentiamo il medico del Milan, il professor Tavana. Alla fine dell'allenamento ho avuto un risentimento muscolare, un dolore accusato in pratica, abbiamo fatto delle indagini, c'è una piccola lesione al muscolo, al pettineo per essere precisi, ci induce a non rischiare. Assente anche l'altro infortunato, Robinho. Al Camp Nou, Allegri potrebbe schierare in attacco la coppia Pato-Cassano. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa.